però con la storia di un giudice. Nella piazza di una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari di un baraccone, con poco senso del pudore le comare di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'apre di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiava. Tentatori. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra ideazione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri abbiamo squagliato, il quadro me lo accelerò, e sulla vecchia, sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando alla vecchia che fosse ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata. Come si venga per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, perché sicuro il seguito prova che era torto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne fra l'erba alta non posso dirvelo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e il suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale, quel giorno prima come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla. Grazie, questo era il gorilla, tradotta di Brassan, tradotta da De André, fatta anche da Danny Svampa, però quella non la so, la versione milanese. Continuo con intrattenimento, così mentre voi potete anche prendere posto nel frattempo, accomodarvi, che tra poco comincia la presentazione di questo gran libro che parla di carcere, vita carceraria, eccetera, eccetera. Io vado avanti con il tema un po' carcerario, di André, sempre di André, così. Io mi chiamo Pasquale Gafir, sono brigadiero del carcerone. Mi chiamo Gafir Pasquale, sto poggio reale al 53. Al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna anche il bacio speciale, c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro favoli, briganti, papponi, corrotti e lacche. Tutte le ore che ho state denzie, che spinta minacce, sa via con me. Alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio di andare a fare, mi spiega che tu si bevi mo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Caricia la cacciccirina, la compagna di ciola, c'ho dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Caricia la cacciccirina, la compagna di ciola, preciosa mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costella, si indigna, si impegna, poi gioca la spugna con grande dignità. Il cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sentissimo in muso, chiedo consenso da Raffaele. Un galantuomo che te ne sei via, che se ne a casa ti danno consigli. Mentre sassore che Dio lo perdona, dentro l'occhio alleva i visori. Se vi basta una mossa e una voce, caso Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, pulite, spremuto, gradite, caffè. Ah, che bello caffè, pure in tutto lo sanno fa. Caricciate che ci ci rimane, con voglio di ciola, ciò di mamma. Che la compagna di già la preciosa mamma. Qui ci sta l'inflazione Grazie. Ne faccio un'ultima. Adesso non so se fare... No, non so benissimo cosa fare. Continuo a parlare di giudici e magistrati. Sempre di André. E poi toccherà a Gabriele Fuga a presentarvi il suo libro. Quindi, dicevo... Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Te lo rivela gli occhi e le battute della gente, o la curiosità di una ragazza irriverente che mi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo fino a dire che un nano è una carogna di sicuro. Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Fu nelle notti insonne, meglio che a lungo del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. Ora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidargli al boia un piacere del tutto mio prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Grazie a tutti, questo intrattenimento che magari fra un po' si riproporrà alla fine con altre canzoni. Ecco, allora buonasera a tutti, in attesa di ascoltare delle altre canzoni veramente belle, posso, vi saluto, vi ringrazio di essere venuti. Noi avevamo pensato quest'anno di fare tre iniziative in ricordo di Primo, la cui morte ricorre il 31 di marzo, e data la lentezza e un po' la fatica dei tempi si sono un po' sparse. Una è stata domenica scorsa la presentazione del libro sulla colonna Valtera Lasia, una è questa sera e l'altra verrà, e di quella daremo poi notizia in futuro. Ringrazio Pippo e Gabriele, sono molto contento di avervi qua alla presentazione di questo bel libro. Invito una considerazione in generale, chi allora c'era e sa, e chi allora c'era e non sa, a prestare una particolare attenzione alle vicende raccontate da questo libro, perché questa storia, che non è affatto una storia inventata, racconta un pezzo di questo paese, e forse non solo di questo paese, che in una qualche misura non c'è più, e anche su questo, e che è arrivato a un punto, ad un certo punto, un libretto che è stato fatto allora, esatto, che è quello che Pippo là dice, che i primi arresti di legali avvengono in Europa, avvengono in Italia negli anni 70, dopo il precedente era l'arresto degli avvocati di Maria Antonietta nel 1700 in Francia. Quindi, diciamo, cioè, riporta, se è vero quel che c'è scritto, un vuoto lungo. Anche per questo una ragione c'è. Adesso io vi lascio e presentate, casomai poi ne parliamo insieme. Grazie ancora. Controllatore. Mi dicono che devo introdurre, e vabbè, allora così, ex abrupto, come si dice, eccomi qua. Dunque, il libro di Gabriele secondo me è un libro molto bello sotto diversi profili, forse perché conosco Gabriele da tantissimi anni, quello, e conosco anche le vicende del contesto complessivo in cui si inserisce questa storia. Quello che mi colpisce di più del libro è un fatto che può apparire marginale, cioè la sincerità di questa storia, nel senso che Gabriele non si presenta in modo spocchioso, come un martire vittima della repressione. C'è questa componente, certo, che lui è vittima della repressione, ma si presenta con la sua dimensione di vita carceraria, che è una vita carceraria vera, fatta di quotidianità, di esperienze concrete, fatta di paura. Per esempio l'episodio della rivolta di Volterra, che segue a una mancata evasione organizzata da un gruppo di detenuti, di prigionieri sardi, nasce una rivolta con sequestro di tutta una serie di guardie carcerarie, e Gabriele lì dice che quando si accorge di quello che sta succedendo ha una sorta di mancamento, perché gli devono dare da bere dell'acqua, perché lui gli piglia fifa. E poi altri aspetti, ad esempio, adesso parlo male, sembra che voglia parlare male di lui, no? Nel senso che i suoi genitori gli portavano dei dolcetti quando andavano al colloquio. E allora lui se li teneva rigorosamente per sé all'interno del suo armadietto, e un giorno si accorge che il suo armadietto è svaligiato dalla brigata Bomboloni, o dalla brigata Profiterol, e lì questo è un insegnamento, perché da quel giorno in poi tutte le volte che gli arrivano i Profiterol li socializza e li mette insieme a quelli degli altri, li dà anche agli altri. Però questi sono degli elementi marginali, ma che secondo me sono importanti proprio per questo aspetto di verità. Però c'è poi un discorso più ampio, che è quello del contesto complessivo, e su questo io non so, corro sempre il rischio di ripetermi, però questo aspetto del, che già accennava Tommaso prima, della enormità di questo attacco al diritto di difesa che risorge dopo decenni, va di pari passo con quei mutamenti istituzionali che hanno caratterizzato il cosiddetto periodo dell'emergenza, che è un periodo dell'emergenza che col cavolo che è dell'emergenza, perché in realtà introduce nel nostro ordinamento degli elementi strutturali che diventano poi parte fondante del nostro sistema giuridico attuale. E possiamo vederlo questa concomitanza, perché c'è la legislazione dell'emergenza che possiamo far datare dal grosso modo dalla metà degli anni 70, con le varie leggi Bartolomei, la legge sulle armi, la legge reale e via via, fino a salire poi alla dissoluzione del processo attraverso la figura del pentito e la distruzione del processo come un momento di accertamento della verità, ma soltanto come controllo dell'identità dell'imputato e come processo contro al fine di ottenere abiure, al fine di ottenere pentimenti o quantomeno dissociazioni. Bene, in contemporanea con questo meccanismo istituzionale, sarà un caso, io qui mi sono segnato i tempi, noi abbiamo nel 1900, vi faccio questo elenco noioso che però è significativo, nel 1975 abbiamo una comunicazione giudiziaria da Torino all'avvocato Antonio Stasi, sempre per banda armata, e contemporaneamente ad aprile a Edoardo De Giovanni, sempre per 306. Però siamo agli albori, sono i primi movimenti in questo senso, tant'è vero che ci sono poi le requisitorie, lì la richiesta della comunicazione giudiziaria che viene poi spedita da Caselli su iniziativa del procuratore Bruno Caccia, cui è attualmente intestato il Palazzo di Giustizia di Torino. E lì c'è ancora un rigurgito, che possiamo dire, di garantismo, nel senso che dicono sì, effettivamente ci sono numerosi elementi di sospetto, bla bla bla bla bla, però non ci sono elementi sufficienti per il rinvio a giudizio, per cui c'è un proscioglimento in istruttoria. Sempre nel 1975 c'è il primo attacco mediato al diritto di difesa. Noi abbiamo la figura del caro Sergio Spazzali, e dico caro non solo perché ha seguito Maso, che è il suo arresto perché è accusato di introduzione in Italia attraverso il varico di Dumenza delle mine anticarro che probabilmente erano destinate alla resistenza greca contro i colonnelli. Ma Sergio viene colpito anche perché in quegli anni lui è uno dei fondatori del COMINT, che è il Comitato Internazionale per la Difesa dei Detenuti Politici in Europa, e in particolare partecipa, è uno dei promotori e degli elementi più attivi delle campagne contro l'isolamento carcerario, contro che colpisce ad esempio in modo particolare Petra Krause, ma comunque un discorso complessivo sulla prigionia politica in Europa. Col 77 abbiamo un passaggio ulteriore, abbiamo l'attacco e la carcerazione dell'avvocato Saverio Senese a Napoli, perché viene accusato, e difendeva molti imputati di appartenenza ai nuclei armati proletari, i NAP, e viene arrestato, trattenuto in carcere. Se non sbaglio, il pubblico ministero all'esito dell'istruttoria chiede il suo proscioglimento, ma il giudice lo rinvia a giudizio e la Corte d'Assise di Napoli lo condanna a più di 4 anni di carcere. E fra l'altro poi Saverio Senese ottenne negli anni, non tantissimi anni fa, la revisione del processo e venne assolto in sede di revisione del processo. E sempre nel 77 ancora Sergio Spazzali, associazione sovversiva per il soccorso rosso milanese, e Nanni Cappelli, sempre 270, associazione sovversiva che sarebbe stata autonomia operaia, che in realtà era un fenomeno politico ma non aveva una struttura organizzativa tale da poterla inquadrare all'interno di un sistema organico di organizzazione. Dopodiché abbiamo l'irrompere sulla scena di Peci, e contemporaneamente a questo con Peci abbiamo quel mutamento della legislazione emergenziale, il primo decreto Cossiga del 1979, e nel 1980 ad aprile abbiamo il nuovo arresto di Sergio Spazzali, il suicidio perché colpito da mandato di cattura dell'avvocato Arnaldi di Genova, e abbiamo questa inseguirsi di carcerazioni, perché Gabriele difende è nominato da Sergio e dopo 15 giorni viene arrestato. E qui c'è il libro di Gabriele, inutile che mi dilunghi. Gabriele nomina Luigi Zezza come suo difensore e Luigi Zezza a novembre dell'80 subisce una prima perquisizione e poi a gennaio dell'81 ha il mandato di cattura. E c'è, trovo uno spiritoso e bello, anche oltre che spiritoso è anche profondo, un intervento, una lettera al manifesto di Luigi Zezza, che è intitolata credo A cani sciune fesso, e in cui spiega perché lui se ne va, perché dice che la sua esperienza gli dimostra che non vale la pena di rimanere in attesa che ti contestino qualcosa di effettivamente sussistente o di qualcosa che abbia sapore di reato, perché in realtà tutti questi procedimenti sono caratterizzati, tant'è vero che ci sono poi delle prese di posizione da parte dei vari consigli dell'ordine, ancora a partire dal 75 in poi, dei vari consigli dell'ordine. Alla perquisizione dello studio di Gabriele partecipa anche Prisco, che non era certo un soggetto di sinistra o garantista, però di fronte alla perquisizione e al sequestro di fascicoli processuali, quindi con violazione dei doveri di riservatezza, del segreto professionale e così via, intervengono anche i consigli dell'ordine, oltre alla presa di posizione di più di 100 avvocati milanesi che firmano appelli a sostegno di Gabriele. E sempre dopo in contemporanea con l'incriminazione di Luigi Zezza, abbiamo anche l'avvocato romano Rocco Ventre, sempre nel 1980, che è arrestato con mandato di cattura per 378, per favoreggiamento. È 378? Sì, per favoreggiamento. E in più, tanto per non sbagliare, gli fanno una comunicazione giudiziaria che più o meno copre tutti i fatti omicidiari e non commessi da organizzazioni armate a Roma fino a quella data. Poi, vabbè, all'epoca so che venne rinviato a giudizio per il solo favoreggiamento e non so poi come è andata a finire questa cosa, perché non l'ho seguita. Sempre nell'ottobre del 1980 abbiamo altri fatti marginali, non pesanti, che però dimostrano la pervicacia nel voler ottenere una distruzione di un effettivo diritto di difesa. Abbiamo l'avvocato Ghidoni a Bologna che viene perquisito e con comunicazione giudiziaria. Abbiamo l'avvocato Maria Grazia Longoni, che prende anche lei la perquisizione e comunicazione giudiziaria. C'è Filastò a Firenze, anche lui con perquisizione e comunicazione giudiziaria. E poi c'è questa pervicace volontà di continuare a fare terra bruciata intorno alla difesa degli imputati per fatti di cosiddetto terrorismo, nel senso che è emblematico, qui me lo sono segnato, vediamo se trovo la pagina, sono ancora degli interrogatori di Alberto Donat Cattain, interrogato a Torino, qui siamo più avanti come tempi, siamo negli anni 80, non nei primissimi anni 80, in cui gli chiedono in continuazione i suoi rapporti o i rapporti fra prima linea e i vari avvocati, e lui risponde in modo, non dice quello che vorrebbero che lui dicesse, perché dice: a quanto mi risulta non vi è mai stato in alcuna sede alcun legame di organizzazione tra PL e avvocati. Poi qui nel libro si legge, ma evidentemente l'inquirente non si accontenta e Donat Cattain deve spiegare in base a che criteri si erano scelti a Torino gli avvocati Zancan, Guidetti Serra, Rogolino e Annoni. E deve precisare evidentemente, su richiesta non verbalizzata del magistrato, che se qualche clandestino è andato a chiedere notizie sull'andamento dei processi, certamente la sua qualità di clandestino, la sua appartenenza a PL erano ignote all'avvocato. E così viene anche esaminata la situazione di Milano. Donat Cattain fornisce le sue valutazioni in ordine alle ideologie di Danny Cappelli, di Giuliano Spazzali e degli avvocati che a suo dire avrebbero lavorato con Giuliano che sarebbero stati Piscopo, Zezza e anche Gabriele. E quindi c'è questa pervicacia che trova proprio le sue origini ancora nelle prime comunicazioni giudiziarie a cui mi sono riferito, quelle che avevano però portato a dei proscioglimenti, laddove si dà una definizione in sostanza di quello che non deve essere l'avvocato. L'avvocato deve essere amicus curiae, non può essere un sodale dell'imputato, non può essere schierato con l'imputato contro lo Stato, perché già questo lo mette agli occhi degli inquirenti come potenziale, come sicuro sospetto, come probabile soggetto da inquisire e in alcuni casi come soggetto da arrestare. Qui si legge ad esempio nella requisitoria di caccia: l'esperienza insegna che nei processi per delitti politici il patrocinio viene di regola affidato a difensori politici che condividono quantomeno le linee di fondo dei loro assistiti. Corollario di tale principio è stata negli ultimi anni la creazione del Soccorso Rosso, una sorta di organizzazione di avvocati avente per compito dichiarato quello di assumere l'assistenza legale degli imputati di delitti politici, oggettivamente e soggettivamente commessi da militanti dell'arco della sinistra parlamentare, con la conseguenza che le esigenze della difesa tecnica sono subordinate a quelle della difesa politica. E si arriva poi al punto chiave, cioè che l'atteggiamento di alcuni legali è tale che non è fuori luogo il sospetto che essi si siano prestati a fare da tramite, il solito discorso che verrà poi ripetuto, tra gli imputati reclusi e i loro correi liberi, non soltanto per una semplice trasmissione di notizie e di scritti. E quindi è lì che c'è il nucleo. Si vuole anche distruggere il discorso dell'avvocato come difensore, non solo sul piano del processo e della responsabilità o non responsabilità dei fatti di cui l'imputato è accusato, ma anche dell'avvocato come difensore dell'identità dell'imputato. Questo evidentemente non è più tollerabile nel momento in cui l'identità dell'imputato è proprio quello che si vuole distruggere da parte degli inquirenti, e quindi va fatta terra bruciata intorno ai difensori degli imputati nei processi politici. E comunque Gabriele, adesso gli lascio subito la parola, no, dato che prima spulciavo gli elementi di sincerità che mettevano in luce le sue ammissioni di debolezza, devo dire che dentro queste sue ammissioni di colpevolezza ci sta poi il contorno invece della sua rigorosa e intransigente mantenimento della sua identità politica e della difesa anche dell'identità dei suoi coimputati dentro quel processo. Poi vabbè, il libro si ferma con sostanzialmente con la vicenda dell'imputazione Operazione Rivoluzionaria. Poi Gabriele, e qui ci sono degli accenni, viene colpito strumentalmente nel momento in cui si suppone che possa essere assolto a Livorno. C'è il 18 febbraio, no, 18 di qualche mese, vabbè, l'interrogatorio di Michele Viscardi, che 4 mesi prima aveva detto di non... No, 18 maggio, che a febbraio aveva detto boh, di fuga, ma chi lo conosce, non ne so niente, e il 18 maggio invece dichiara che no, fuga certo, è organico a prima linea. E quindi il 19 maggio c'è la richiesta del PM di Milano di mandato di cattura, e la brillante giudice istruttore di Milano emette il mandato di cattura per prima linea. Questo è anche un modo di fare pressione sulla Corte d'Assise di Livorno perché tengano conto che è un pessimo soggetto questo Gabriele Fuga, che infatti poi verrà assolto anche dall'accusa di prima linea, così come quella relativa ai reparti comunisti d'attacco, che lo vedono soltanto imputato in quel caso, ma non anche arrestato. E quindi bravo Gabriele. Allora, grazie innanzitutto di essere venuti, buona lettura per chi lo vorrà fare. Cercherò adesso di, in poche parole, di spiegare cosa mi ha portato a scrivere questo libro, per condividere questa esperienza con le altre persone. Allora, questo libro nasce dal bisogno di comunicare, che a un certo punto della mia vita ho avuto, che l'umanità è ovunque, anche in carcere. Una delle molle che mi ha portato a scrivere è che, a differenza di quello che si ritiene genericamente, io ho verificato nella mia esperienza carceraria, soprattutto la prima, sulla seconda dirò qualche cosa dopo, ho verificato nella mia esperienza carceraria che anche nei soggetti che apparentemente possono sembrare i più difficili da digerire, i più difficili da accettare, c'è dell'umanità. Io ricordo in particolare una cosa che mi ha colpito allora e mi colpisce ancora ripensandoci. Soprattutto a Porto Azzurro ho avuto l'occasione di conoscere dei sardi che erano alloggiati al piano sopra dove ora c'è la io con altri due compagni, e presso i quali andavo alla domenica a mangiare il porceddu, perché loro avevano l'autorizzazione di andare in cucina a cucinare il porceddu, e la domenica c'era questa rituale e andavo su e mangiavamo il porceddu, si parlava, una solidarietà incredibile. Soprattutto noi eravamo tre compagni che arrivavamo a Porto Azzurro reduci dalla rivolta di Volterra, e parlando del più e del meno, uno di questi mi ha raccontato anche la sua vicenda giudiziaria, e dirò che al momento sono rimasto piuttosto scosso, perché una delle accuse più importanti che l'avevano colpito era di aver effettuato un sequestro di persona e che accidentalmente era morto il sequestrato e l'avevano dato in pasto ai maiali. Il corpo era stato dato in pasto ai maiali. Una cosa di questo genere ti fa pensare a una mostruosità, cioè a una persona cattiva dentro. Invece no. Invece no. Era di un'umanità incredibile questo ragazzo, perché era giovane. Una solidarietà, qualsiasi cosa ci fosse bisogno, gli altri compagni di detenzione era sempre disponibile, e questo mi ha fatto molto riflettere. E questo era una delle molle che qua, già allora avevo detto, questa cosa devo comunicarla, perché deve essere smentita questo apriorismo di dire hai fatto questo reato quindi sei una belva, sei un... No! Le cose non sono collegate. Altro motivo che mi ha portato a scrivere questo libro era che effettivamente già Pippo vi ha elencato tutta una serie di passaggi, io involontariamente mi sono trovato in mezzo a una campagna contro la difesa. Io non ti dirò, me ne ero reso conto, l'ho anche denunciato durante il processo, però non l'avevo vissuta così intensamente. Ripensandoci poi, ricostruendo tutti i passaggi, ho detto no, è proprio così. E tra l'altro ho aiutato anche, perché mentre io avevo le mie vicissitudini carcerarie, i compagni avvocati fuori avevano fatto quel meraviglioso libro che si chiama Illegittima difesa, da cui Pippo vi ha letto alcuni passaggi, dove riportava proprio da un punto di vista storico e documentale i vari passaggi dell'attacco alla difesa, e quindi ho detto no, allora a questo punto devo dire anche la mia in merito a questo, e combinazione vuole che un punto forte di quel libro è anche qui, perché sia lì che qui vengono riportate le mie dichiarazioni spontanee al processo di Livorno. Dichiarazione che io allora feci, che penso di aver mantenuto, non completamente, devo ammettere, visto che siamo in tema di verità, devo ammettere, perché io là avevo detto, chiedo scusa un attimo e ve lo leggo, ma avrei dovuto prepararmelo meglio. Allora, dichiarazioni finali, dove sono? Pagina 306, grazie. Eccole qua. Esatto, io concludo queste dichiarazioni finali dicendo: qualunque sia la vostra sentenza, qualunque sia l'esito dell'istruttoria in corso a Milano, subito, fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, continuerò a fare l'avvocato come ho fatto fino al momento del mio arresto, perché come anarchico e come avvocato rivendico il diritto e il dovere di difendere con tutta la mia intelligenza e la mia capacità, sia come difensore tecnico che come difensore politico, tutti i compagni che si rivolgono a me, anche quelli che vengono ritenuti da alcuni settori della sinistra compagni che sbagliano, distinzione che non mi interessa né mi permetterei mai di fare. Questa era stata la mia dichiarazione finale al processo. Dico, siamo in tema di verità, effettivamente non l'ho mantenuta al 100%. Perché quando sono uscito, assolto qui e in libertà provvisoria per prima linea, ho avuto paura e mi sono tirato un po' indietro. Tant'è che dal carcere di Trani mi arrivò una lettera pesantissima dove si diceva che la Gabriele Fuga aveva deciso di fare l'avvocato, punto e basta. Che già di per sé questa lettera è un'infamità, perché è come dire pubblicamente che prima facevo l'avvocato, virgola e qualcosa. Ma al di là di questo, è vero. Io ho avuto paura, come ho avuto paura in carcere durante la rivolta di Volterra, perché sono un uomo, non sono un'entità astratta, ho le mie debolezze e ho cercato anche sinceramente di esporle e, ripeto, ho avuto paura. Però, detto questo, quando la mia situazione si è nuovamente risolta definitivamente con la soluzione anche di prima linea, io ho ripreso a fare la mia attività in pieno, pur nei limiti dei tempi, perché le cose erano cambiate, modificando il mio intervento, i miei modi di intervento, modificando le realtà che andavo a difendere, ma quel principio l'ho mantenuto. C'è stato soltanto questa parentesi di paura. Detto questo, andiamo avanti, perché altre cose sono state importanti nella mia vita carceraria. Io ho ritenuto, ad esempio, una delle cose che mi aveva aiutato a passare il tempo, e parlo sempre della prima carcerazione, perché come vi ha detto Pippo, io ho avuto, poi, mentre stava finendo il processo di Livorno, ho avuto il mandato di cattura per prima linea, per il quale poi sono stato messo in libertà provvisoria, e poi, beh, Pippo però non l'ha detto, perché non era il caso di dirlo, ma lo aggiungo io. Un anno esatto dopo di libertà, su un ricorso dell'allora pubblico ministero, la sezione istruttoria di Milano aveva ritenuto che il mio di dover riemettere il mandato di cattura, tant'è che feci un'ulteriore carcerazione per prima linea più lunga di questa, sulla base di un principio che riteneva il pubblico ministero che il mandato di cattura anche per partecipazione a banda armata fosse obbligatorio, quindi non ci poteva essere la libertà provvisoria, e che comunque c'era l'aumento dei termini di carcerazione preventiva, eccetera, eccetera. E poi mi sono trovato all'inizio del processo, dicembre 83, su una mia richiesta di scarcerazione di libertà per malattia, perché io effettivamente avevo un grave problema all'anca, e mi sono sentito dire dal pubblico ministero in udienza: ma no, ma qui non è un problema di malattia, è un problema di decorrenza termini. E da mo' che sono decorsi i termini? E io mi ricordo che c'avevo davanti un giornalista, Gian Antoni, che scriveva per Il Giorno, e ho detto: ah, anche il pubblico ministero si pente, perché lui aveva sostenuto il contrario, tant'è che mi scarcerano per decorrenza termini. Ripeto, ma tutto questo per dire che nella prima carcerazione io avevo verificato una cosa che si sapeva, però vivendola sul posto, che la maggior parte dei detenuti non era difesa. Cioè, veramente, in carcere, soprattutto un grosso settore, lo sapevamo, lo dicevamo nei convegni, ma vivere questa cosa direttamente è stata importante. Tant'è che fin da subito, durante il primo periodo di carcerazione l'ho fatto a San Vittore, 40 giorni a San Vittore, al Sesto Raggio, e fin da subito all'aria ero circondato da detenuti, avvocato qua, avvocato là, istanze contro istanze, e io mi ero permesso, e qui nel libro non lo riporto, di scrivere al direttore chiedendogli: visto che c'è questa situazione di bisogno, perché i difensori d'ufficio purtroppo non arrivano anche umanamente a fare troppe altre cose, tipo le istanze di semilibertà, liberazione anticipata, libertà provvisoria, avevo chiesto la possibilità di poterlo fare quasi ufficialmente, anche se non direttamente con rapporto con i detenuti, ma tramite gli educatori. E mi sono sentito cacciare via dal direttore, dall'ufficio dove ero stato convocato, perché avevo chiesto un colloquio col direttore. E poi la cosa veramente strana è che poi questo episodio è stato utilizzato, lo riporto qua nel libro, in una lotta che già allora c'era tra direzione del carcere e magistratura di sorveglianza, tant'è che il magistrato di sorveglianza di Milano di allora è stato inquisito al Consiglio Superiore della Magistratura perché il direttore aveva denunciato questo episodio dicendo che io in quell'occasione l'avevo minacciato e che lui aveva riferito questa cosa al magistrato di sorveglianza che non aveva fatto alcunché. Ora, io la prima considerazione che ho fatto, e faccio anche qui, è: ma se io veramente avessi minacciato il direttore, sarei potuto ritornare tranquillamente in cella senza essere neanche accarezzato, e soprattutto sarei rimasto a San Vittore e non spedito all'Asinara piuttosto che a Cuneo? Evidentemente la cosa era puramente strumentale, tant'è poi che il magistrato di sorveglianza è stato prosciolto dal Consiglio Superiore della Magistratura perché era stata usata contro di lui tutta questa messa in scena. Ma questo è un piccolo particolare. Il succo era che sia lì, ma soprattutto a Volterra, io facevo questa attività, facevo l'avvocato, anche in carcere. A Volterra poi era ancora più semplice, perché a Volterra, essendo tutti in celle singole, e essendo in celle singole però con la possibilità che chiunque potesse, dalla mattina alle 7 alle 11 di sera, chiunque poteva chiedere alla guardia che venisse aperta la cella e entrare o per starci o per non starci, e qui c'è anche l'episodio della Brigata Profiterol. La Brigata Profiterol è venuta fuori perché, potendo chiunque entrare nella mia cella, nella quale apriva e lui entrava dentro, perché molte volte si preparava la cena in una cella piuttosto che in un'altra, hanno potuto fare questa, chiamiamola, razzia, però mi sono divertito. Al momento ero incazzato, ma ho tirato giù qualche bestemmia, poi mi sono messo a ridere, perché effettivamente avevano ragione. Ma chiuso questo discorso, a Volterra aveva un ufficio, nel senso che fuori, durante le ore d'aria, trattavo le cose all'aria, ma se no le guardie accompagnavano i singoli detenuti nella mia cella e lì mi spiegava, io facevo, avevo la macchina da scrivere, facevo le istanze, facevo l'avvocato. Ho fatto l'avvocato anche in carcere. Un'altra cosa che ho voluto evidenziare è i rapporti che all'interno del carcere c'erano fra le varie realtà, perché anche il carcere è suddiviso, almeno questo, io parlo sempre della prima carcerazione, perché la seconda carcerazione l'ho fatta tutta in un raggio di solo politici, per cui noia totale, ma poi questo è un altro discorso. Lì invece convivevi con le varie realtà, c'erano i cosiddetti sardi, che poi erano quelli che avevano tentato l'evasione, che è poi finita male quella, e c'è stata la rivolta, c'erano i napoletani, c'erano i mafiosi, c'era una buona componente di mafiosi a Volterra. E lì, a proposito di paure, ho avuto un altro momento di, non paura, terrore. Cosa succede? Io sono nella cella di un compagno mio coimputato siciliano, con il quale avevamo una diatriba pesante, perché nonostante le varie indicazioni e i suggerimenti e le opportunità che gli avevamo detto, continuava ad andare a mangiare con i siciliani della mafia. A mezzogiorno lui andava in cella di questi, era più forte di lui. Si vede che la sicilianità era più importante dell'essere un compagno. Capita. Fatto sta che c'è stata una grossa tensione. Un giorno io sono nella sua cella, perché sono di turno, che era una delle più grandi, sono di turno a preparare il pranzo, e mi vedo avvicinare al cancelletto, perché avevamo il blindato aperto, però il cancelletto chiuso. Il cancelletto chiuso, si avvicina una persona anziana con a fianco un giovane che sapevo benissimo che era il capo mafia all'interno del carcere di Volterra. Mi si avvicina e mi dice: avvocato, scusi se la disturbo. Poi vedo che si blocca, mi guarda con un odio che mi avrebbe trapassato, si gira e se ne va. Rimango sconcertato. Ah no, gli dico: ma cosa è successo? E lui mi fa: cos'è quello? E mi indica col dito qualcosa alle mie spalle. Lui se ne va, io mi giro e trovo appeso sulla parete un foglio grande così di carta con su scritto: sono a mangiare dalla mafia. Ho detto: oddio mio, qui sono fatto. Perché una cosa di quel genere, potete immaginare che cosa poteva significare, tant'è che io chiamo i compagni, facciamo una riunione, attenzione, stiamo attenti, qui la cosa bisogna, succederà qualcosa. Allora, come vi ho detto, le celle alle 11 venivano chiuse, chiuso il blindato, e fino alla mattina dopo non succedeva niente. Alle 11:30 di quella sera sento aprire il blindato. Una guardia mi fa: avvocato, ecco perché è un'altra cosa, tutti, esclusi i direttori, tutti, dal maresciallo alle guardie, mi chiamavano avvocato. E questo, capirete, che dà un senso di forza, anche di tranquillità. Questa guardia mi apre, dice: avvocato, il signor, e fa il nome, vuole parlarle. Ecco, potete immaginare il percorso tra la mia cella fare un pezzo del ballatoio, il ponticello, perché per passare dall'altra parte del ballatoio è una specie di ponte, l'altro ballatoio, perché la cella di questa persona era a 200, i numeri lì sono segnati, era poco distante. Cosa ho passato facendo questo percorso? E arrivo là, la guardia apre il blindato, il cancelletto, il blindato era già aperto, apre il cancello di questa cella, ripeto, sono tutte celle singole, però lì c'era lui, il vecchio, e il ragazzotto, il picciotto, seduto sul letto. Mi fanno entrare, chiudono il cancelletto alle mie spalle e io dico, e adesso? E mi offre il caffè. Tranquillamente mi tende la mano, mi dice avvocato, e mi dice, avvocato, vede, noi non ci permetteremmo mai di chiamarvi terroristi. Come per dire, voi non permettetevi di chiamarci mafia. Fini un po' di discorsi, poi dice, comunque adesso che siamo qua, siamo tranquilli, ero venuto a chiedere un favore per questo ragazzo, mi spiega qual è il motivo tecnico, ci salutiamo e io me ne torno in cella. Ragazzi, appena entrato in cella, ha detto, il giorno dopo ha raccontato tutto l'episodio ai compagni, vabbè, per dirvi che la cosa era paura, perché la paura è umana, ragazzi. Non bisogna aver paura di aver paura, bisogna ammetterlo. Io lì ho avuto veramente paura, più paura lì, quella sera lì, che non il giorno in cui sono lì che gioco a Risico con gli altri, con altri tre compagni, perché questa era anche l'attività. Allora, vi dico un aneddoto. La mia compagna di adesso, che ha letto il libro, ha detto, ma da questo libro sembrerebbe quasi che ti divertivi, mangiavi dolci, giocavi a Risico. Beh, insomma, dico, questi sono piccoli aspetti. Comunque, giocavamo a Risico, siamo lì che giochiamo a Risico, a un certo punto sentiamo aprire la cella. E ragazzi, non era la guardia che apriva la cella, era un detenuto che aveva le chiavi e ha aperto la cella. E bloc, Gabriele fuga la roccia, bloc per terra. Un collasso mi ha preso, una fifa. Dico, ma... E difatti cos'era successo? L'evasione era andata male, qui descrivo poi tutti i particolari, e quindi chi doveva evadere ha trasformato il tutto in rivolta. Sequestro delle guardie, apertura delle celle, poi chi è curioso lo leggerà nel libro. Per dirvi che comunque anche questo è successo. Anche però quella paura lì è momentanea. Ma la paura di quella notte nella cella del mafioso non la raccomando a nessuno. Altri aspetti del libro, ce ne sono tanti, perché ripeto, Pippo ha detto che ha voluto essere verità, sì, ci sono le mie debolezze, ho cercato di raccontare senza mistificare, senza enfatizzare, che ci sia riuscito o no sarete voi a giudicarlo, quelli di voi che avranno la voglia di leggerlo. Però ripeto, questa è la prima parte, dovrebbe arrivare in futuro la seconda carcerazione e quindi la seconda cella. Lì è molto più difficile, perché lì è stata veramente un'altra cosa. Vi dico soltanto, vi anticipo, che un meccanismo, eravamo in una sezione di solo politici, sempre solo, tutta San Vittore e solo politici. Eravamo nel periodo, diciamo fine 82, inizio 83, in cui era in discussione tra le forze politiche e sociali quella che si chiamava allora legge Vassalli, che era il preludio alla dissociazione. Dovete sapere che nel nostro raggio c'era anche una buona componente di quelli che nel libro qua io chiamo i brividi, che sono i compagni delle Brigate Rosse, noi anarchici li chiamavamo i brividi, giocando sul BR, brividi. Era una componente abbastanza seria, rigida, molto rigida, tant'è che c'era nel gruppo dei compagni, c'erano anche dei giovani, giovanissimi, che si permettevano anche qualche attività ludica all'aria, scherzavano, avevano un rapporto con le guardie non proprio rigido ma quasi familiare, e questi compagni ritenevano che ciò non andasse bene. Però tutti, escluso uno, erano in 6 o 7, escluso uno, non faccio nomi, a uno mi avvicinavano all'area e dicevano: Gabriele, ma come funzionerà quella legge? Al che ho detto: no, di fronte all'ipocrisia non ci sto. Mi sono chiuso in cella, non sono più andato all'aria e ho fatto tutta la carcerazione uscendo soltanto per andare ai colloqui con mio padre, che veniva 2 volte a settimana, l'avevo nominato difensore e quindi poteva venire come avvocato 2 volte a settimana per andare ai colloqui, e passando il tempo a fare una cosa incredibile, a tradurre l'Ulisse di Joyce. Questa è la mia seconda carcerazione. Grazie. Se c'è qualche curiosità da dover soddisfare, ci sono. No, ma faccio una... Ma posso cominciare io con una domanda, eccetera? Il libro, no, inizia nell'aprile dell'80 e finisce... l'estate dopo 14 mesi, eccetera. Si svolge il processo, eccetera. In questo libro viene raccontato il processo e il dibattito processuale, che è quello che, meno leggendo il libro, che permette di incrinare le deposizioni dei pentiti, che mette in difficoltà l'accusa, che insomma, che permette poi alla fine che parte degli imputati possano uscire. Ecco. Questo qui è il dibattito processuale. Domanda: è un ricordo antico o ci si può, rispetto all'oggi, il dibattito processuale ha ancora un valore per uno che viene inquisito, eccetera, o è meglio che se lo scordi, sono tutti tecnicismi? No. Ci può contare? Sì, allora, indipendentemente dalla bravura degli avvocati, e qui ce ne sono 2 che sono bravissimi, uno qua e uno lì, indipendentemente dalla bravura degli avvocati, secondo me, in Italia almeno, nonostante i vari tentativi di tarpare le ali alla difesa, è ancora possibile difendersi. Si può ancora affrontare i processi e si può ottenere ancora dei risultati corrispondenti a una verità effettiva, e si può ancora evitare condanne di principio, cioè che già scontate, perché un certo spazio c'è ancora. È chiaro che però, come vi ha dimostrato Pippo prima, col tempo, soprattutto per certi reati tra virgolette, è sempre stato difficile ed è tuttora sempre difficile. Perché? Perché nel momento in cui tu ti poni contro lo Stato difficilmente accetta che tu ne esca fuori indenne, perché la vendetta dello Stato è sempre, c'è sempre stata, a partire, e qui non voglio, non tanto a partire, ma ha avuto un momento di epigono, e qui faccio un riferimento a un'altra cosa che ho scritto, a Pinelli, la vendetta dello Stato nei confronti di Pinelli è un punto storico, importante, irremovibile. Però sì, io ritengo che ci si possa ancora difendere, se no non avrei continuato a fare l'avvocato fino all'altro giorno e adesso, ragazzi, chi non lo sa, glielo dico, ho smesso. Adesso la mia attività è il filatelico. Io vendo francobolli al mercato di Piazza Corduseo alla domenica mattina. Io ho smesso. Quindi alla tua domanda la risposta è: secondo me ci sono ancora spazi di difesa. Tu vuoi fare una domanda? Sì, che un po' si aggancia a quella che ti ha fatto e te la faccio. Non so se te l'ho detto in Massi, perché eccola qua. E te la faccio da collega a questo punto, nel senso che sì, però lo resti. Diciamo, e ti invidio anche un po' per questo. Non volevo dire, noi siamo abituati comunque ad una divisione, cioè noi facciamo gli avvocati e ci sono i detenuti. Tu e qualcun altro, come ha ricordato prima Pelazza, avete un po' sballato questo schema abbastanza fisso, cioè avete fatto entrambi. Quindi hai vissuto l'ingiustizia direttamente, te come prima persona, non soltanto come avvocato. A questo punto io ti domando, ma un po' ha risposto lui, come hai fatto poi ad avere voglia, una volta uscito, a riprendere a farlo, visto che ti sei trovato a direttamente subire l'ingiustizia? Noi di solito trattiamo i clienti, ma non la viviamo noi direttamente, e i nostri clienti poi non fanno gli avvocati. Tu invece sei riuscito a fare due cose. Ti chiedo come hai fatto ad avere ancora la fiducia, che in fondo hai dimostrato rispondendo adesso alla domanda sua, dicendo che in Italia comunque, in qualche modo, si riesce ad ottenere qualche risultato ad onta di tutto. Ecco, sono molto curioso di sapere questo, perché io ho un'esperienza che chiaramente non ho avuto, e come me quasi tutti i colleghi. Allora, per rispondere alla tua domanda devo fare una premessa. Io, quando il 30 aprile dell'80 mi hanno detto venga con noi, avevo 100 compagni detenuti che difendevo, 100. Distribuiti per tutte le carceri d'Italia, e mi ero posto come punto d'onore che se non una, due volte, ma almeno una volta al mese dovevo vederli tutti. E quindi giravo come una trottola, Trani, Porto Azzurro, Asinara, Palmi. Perché? Perché io ritenevo più importante che non difensore tecnico processuale di essere il difensore del detenuto. Io quindi alla tua domanda rispondo che questo problema mi ha sfiorato la fiducia nella giustizia, perché per me il ruolo che mi ero posto come avvocato era di essere l'avvocato del detenuto. Tant'è che io accettavo tranquillamente, senza nessun plissé, che mi revocassero, perché allora succedeva anche questo, no? Che ti revocavano, minacce, non mi interessava, perché tanto poi mi rinominavano per l'appello, che altro, perché per me il rapporto era col detenuto. Io difendevo il detenuto, non l'imputato. E quindi alla tua domanda posso rispondere che non me lo sono posto il problema. Io ho continuato a fare il difensore del detenuto. Capitava anche di fare anche, ho fatto anche dei bei processi. Mi ricordo uno, di cui ne parlavo anche l'altro giorno con Pippo, che avevo ottenuto una cosa che giuridicamente mi sembrava quasi assurda, il tentativo di partecipazione a banda armata, e parlando con un tecnico come te capisci che è una cosa abbastanza, però era successo. L'episodio è quando hanno arrestato Moretti e Fenzi, insieme a lui hanno arrestato due ragazzi di Baggio, e io difendevo uno di questi, avevo ottenuto dall'allora presidente della Corte d'Assise, che era Borrelli, che venissero condannati per tentativo di partire, perché quello era un colloquio, era un esame, erano stati portati lì per un esame e li hanno arrestati. Ecco, per cui anche quello l'ho fatto, però per me il compito principale era il difensore del detenuto. proprio mi riaggancio a questo discorso di Gabriele. E niente, io sono forse cinico su questo aspetto, perché secondo me proprio in questo episodio, vado così a memoria, è sicuramente un buon risultato quello di ottenere la configurazione del tentativo di partecipazione alla banda armata, che poi è ricaduto anche su altri processi, ma lì forse nasceva anche da una necessità politica da parte della Corte d'Assise, perché in quel processo c'era Renato Longo, che era l'infiltrato di cui abbiamo già parlato in un'altra occasione, che avrebbe dovuto avere le funzioni organizzative e invece gli hanno dato la partecipazione semplice. Gli hanno dato una pena bassissima con le varie attenuanti, e a questi due ragazzotti sarebbe stato troppo una disparità di trattamento dargli la stessa pena di Renato Longo. E quindi è benvenuta l'ipotesi di dargli il tentativo. Quindi secondo me è stato bravo Gabriele, ma dietro c'erano anche questi ragionamenti politici da parte della magistratura. Poi per quanto riguarda l'aspetto se c'è uno spazio difensivo, io sono un avvocato vetero, nel senso che i processi penali che ho fatto li ho fatti tutti con i vecchi riti, non con i riti alternativi e tutte queste cose qua. A mio giudizio oggi la difesa è già stroncata, sminuita in parte dall'apparato istituzionale che ha costruito questi riti alternativi. Cioè, nel senso che nel momento in cui ci sono i patteggiamenti che escludono ogni forma di difesa, in realtà c'è questo discorso di pressione sull'imputato perché patteggi, abbia delle riduzioni di pena e riconosca la sua colpa. Cioè, il meccanismo si è portato a ulteriori conseguenze, la legge sulla dissociazione e tutte queste cose, che non si chiama più in questo modo legge sulla dissociazione. Io patteggio, riconosco la mia colpa, chiedo scusa e ho poca pena. Così nel rito abbreviato, per come lo vedo io, che ne ho fatto credo solo uno di rito abbreviato per quanto mi ricordi, anche lì io convalido in un certo senso, chiedendo il rito abbreviato, l'impostazione dell'istruttoria svolta, delle indagini svolte dal PM, perché ritengo che siano inutile un dibattimento, e quindi in questo senso, anche in questo caso, la difesa è spiazzata. Poi si tratterà soltanto di guardare certo le carte, ma c'è già un partire da una posizione di subalternità rispetto all'accusa. In più i tempi sono cambiati rispetto agli anni 80. Rispetto agli anni 80 c'era un problema in cui c'era un movimento in cui l'aspetto della difesa e del risultato che si poteva ottenere sul piano della misura della pena e tutte queste cose qua era quasi secondario rispetto al discorso del mantenimento dell'identità tua. Quello interessava agli imputati nei processi politici, il fatto di potersi esprimere politicamente non tanto agli occhi dei giudici ma agli occhi del pubblico che riusciva a intervenire nei processi, anche se veniva schedato, gli si prendevano i tuoi dati anagrafici e poi gli si ritrovava nei rapporti di polizia che diceva ha partecipato a questo processo come pubblico, bla bla bla, erano tutti elementi indiziari per future incriminazioni. Oggi, con lo sfacelo che c'è qua intorno, dappertutto, dentro di noi anche, quello che conta invece è il risultato sul piano del prendere la minor pena possibile. Per cui si arriva ai paradossi di imputati che magari fanno delle cose inutili, ma stupidamente violente o aggressive o cose del genere, che tu dici, cacchio, vabbè, tu fai queste cose e te ne assumi poi la responsabilità sul piano della difesa del perché e del per come hai fatto queste cose. E no, nel momento in cui poi dopo chiedi il patteggiamento, ho rito abbreviato, queste cose qui, è ridicolo, perché dimostri in realtà la poca credibilità del tuo essere politico e ti rifugi dentro il tentativo di avere la minor pena possibile. Questo lo dico evidentemente non per criticare o dire io sarei molto meglio di questi qua, probabilmente nelle condizioni date sarei anche peggio, ma però bisogna tener conto di questo aspetto, di questo sfaldamento che c'è stato. Oggi è in vigore il fiorire dei reati associativi. Un tempo avevi certo la banda armata, il 270 bis e tutte queste cose qui. Adesso per le occupazioni di case che un tempo facevi le occupazioni di case e non c'erano problemi, ti danno l'associazione a delinquere. L'associazione a delinquere al fine di occupare le case e per dare la casa agli immigrati. Hai il fatto, la resistenza, un tempo almeno un cazzottone a uno della polizia glielo dovevi dare per avere la resistenza. Adesso c'è la resistenza per il fatto della presenza. Tu sei presente il giorno che devono eseguire uno sfratto e la presenza tua impedisce, perché intimorisce gli agenti che dovrebbero dare manforte agli operatori dello vecchio IACP, oggi si chiama in altro modo ALER, queste cose qua, la tua presenza impedisce, quindi costituisce una minaccia e quindi hai la resistenza per il solo fatto della presenza. Questo non dico che ci porti a condanne, magari ci sono degli spazi difensivi, però hai questa enormità sul piano della cultura giuridica dei pubblici ministeri, che oggi si dice che non bisogna avere la separazione delle carriere perché i pubblici ministeri hanno anche loro cultura della giurisdizione. Le palle che hanno una cultura della giurisdizione hanno una cultura della incriminazione, non della giurisdizione, e quindi ti equiparano un'associazione a delinquere per occupare le case, oltretutto che è un fatto di criminalità organizzata come quella criminalità transnazionale, per cui ti applicano le normative, e questo la Cassazione anche lo dice, che qualunque associazione, qualunque essa sia, è sempre un fatto di criminalità organizzata, per cui ad esempio possono farti le intercettazioni telefoniche con necessità, non che ci siano gravi indizi ma semplici indizi, possono durare molto più per reati diversi da quelli relativi alla criminalità organizzata. Comunque chiudo l'inciso dicendo che io non sono così ottimista sul fatto che si possano ottenere dei risultati. Certamente si possono ottenere dei risultati, ma però per ottenere 10 bisogna faticare enormemente, per ottenere 100 è quasi impossibile, però magari 10 lo ottieni, e però bisogna sudare, ecco. Ci allieti con qualche cosa? Sono finite le domande? Parla, no, sì. Volendo, se le possono fare. Allora, non dici niente come finale, non lo so. Dopo, cantaci qualcosa. Cantaci qualcosa, dai. E voi dovete rimanere qui finché non finisco, però. Sì, sì. Io vi sto dando una via di uscita, ma non la volete cogliere, va bene. No, io l'inglese non lo so, non lo parlo, lui però dice, lo leggo e lo traduco. Quando lui, esatto, quando lui dice qualcosa in inglese, lui dice in un modo che anch'io, che non so l'inglese, lo prendo in giro, dice desktop. Questa traduzione si trova da qualche parte? No, c'ho i miei quaderni, c'ho un paio di quaderni, ce l'ho a casa. No, no, non so. Pensavo di fare come la Divina Commedia al liceo, no? Tre versi e tutte le note. E io infatti avevo la traduzione e tutte le note, perché passavo le giornate a studiare, mi facevo portare tutti i libri su Joyce, tutto quello che ha scritto, eccetera, i libri di commento. E passavo le mie ore in carcere, più di un anno l'ho passato così, eh. I compagni di cella? No, ero in cella singola. Avevo chiesto, sì, avevo chiesto di stare in cella singola. No. Eh sì, perché non ne potevo più dell'ipocrisia dell'aria. Cioè, dai, sentivi i più rigidi che ti vengono a chiedere come si fa a dissociarsi, ma vai a cagare, scusami. Anche perché io, a parte questo, ritengo che la dissociazione da un punto di vista processuale sia peggio del pentitismo. In che senso peggio? Perché crea più danni. Se uno vuole difendersi... Da un punto di vista... Nei confronti di chi vuole difendersi, avere di fronte un pentito è più facile. È impossibile, ma è più facile da combattere. Ma avere di fronte anche un dissociato che conferma il pentito pur non facendo il tuo nome, diventa impossibile venire fuori, perché la verità è confermata. La verità del pentito è confermata dal dissociato anche se non fa il tuo nome. Ed è peggio, perché mentre il pentito puoi dire che è prezzolato, che ti odia, che qua, che... Non è mai, nessuno è riuscito a smontare un pentito, o quasi, però almeno ci si prova. Col dissociato sei tagliato fuori. No, no. Io ho molti rapporti di amicizia con i dissociati, sono il primo ad ammetterlo, però politicamente li ritengo peggiori dei pentiti. Ecco, però scusa, in questo senso quello che dicevo sul patteggiamento si lega a questo, perché tu hai, ad esempio, hai 15 imputati in relazione a una manifestazione dove ci sono vari reati, resistenza, oltraggi, oppure la devastazione, il saccheggio che adesso va molto di moda da una decina d'anni a sta parte. Se di questa quindicina di imputati 8 chiedono il patteggiamento, implicitamente riconoscono la validità dell'accusa. Per gli altri 6 che rimangono, se l'avevo detto 15, 8, gli altri 7 che rimangono, difendersi diventa più difficile. Perché in realtà i patteggiatori è come se fossero dei dissociati che dicono effettivamente l'accusa c'ha ragione. E in questo senso c'è il deterioramento della forma processuale oramai all'interno di questi meccanismi dei riti alternativi. No, e poi dopo l'ultima domanda, dato che in questo libro qui la tua prima avventura... dato che la tua prima avventura carceraria ti è capitata grazie a un pentito di Azione Rivoluzionaria, no? Il gruppo Azione Rivoluzionaria processualmente tutto sommato si è comportato bene, o c'è stato qualche... appunto, condannati, dissociati, a parte i pentiti, vabbè, ma era un infiltrato, era uno dei servizi. Sì. Diciamo di sì, non ci sono stati dissociati, non c'era ancora la legge innanzitutto. Anche se oltre che all'infiltrato spia bastardo, come lo chiamo io, abbiamo avuto un altro personaggio, preferisco non fare il nome, che era considerato dai carabinieri la miglior spia che avessero a Milano, ed era un organico di Azione Rivoluzionaria. Non faccio nome al momento. Ma guarda che è citato nell'altro tuo libro di Pinelli. L'hai citato, però... Ho capito, ma non si è dissociato? No. Però era, secondo il SID, la miglior spia che avevano a Milano. Sì. Capita. Dai, Cordiana, vai. Sì. Rallegraci. Mi sembrava una canzone che potesse essere, insomma, la canzone giusta per questo momento. Poi ne farò un'altra, poi inizierò a svalvolare perché mi hanno dato una grappa poco fa e sta salendo. Di respirare ancora d'aria. La conoscete? No. Davvero? Di respirare la stessa aria di un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, e non sarà l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. E non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Davvero non la conoscevo. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. E ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini, donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, al vostro posto non ci so stare. Certo, bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni, hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che non è un delitto di non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto di non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondi e non ci va. E abbia deciso di imprigionarmi nella mura di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Assolutamente da fare, visto che parlavamo di esperienze carcerarie, però adesso continuerei con qualcosa che sì, è sempre comunque una canzone che viene dal carcere, però è gradita la canzone, cioè è gradito il canto, nel senso che se vi capitasse per caso di conoscerla, sarebbe più che gradito la vostra partecipazione. Tu no, perché lo so che sei stonato, non voglio più sentirti cantare in vita mia. Mi svegliava cantando, non l'ho fatto. Se rubi in quattro col padre e Rodolfo il gaino e poi mi quattro mise, quattro mannazzo venuti insieme con panni legati e fa la guerra in Albania così in montagna. Ci fai ancora sentire qualcosa? Ma sempre così, sempre a tema carcerario non avevamo finito. Oddio, anarchia. Tema anarchico potremmo fare qualcosa di tema anarchico oppure. Quando esci dal carcere? Allora ce l'ho una. Quando esci dal carcere? Però è sempre una canzone. Allora, con questa canzone io esprimerò le mie intenzioni del dopo questa canzone. Che saranno più o meno, cioè, basta che io stacchi sempre, ma comunque lo capirete. Si discuteva dei problemi dello Stato, stando a finire sulla scisce legalizzata. E casa mia pareva quasi un parlamento, erano in 15, ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così. L'opinione di Segna non la contate, perché reputazione dite un po' vi fate. La gente giudica voi state un po' in campana, ma invece quello di ascoltarmi continuo. Che bello col pakistano nero e con ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa di caccia senza ritegno, senza parlare a chi mi fa l'esodo sdegno. Mi accompagna alla porta chiusi ogni sportello, torna in cucina e tra i barattoli uno che... Grazie.